Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sono le 15.01, Tracce di Cinema sta per iniziare. Salutiamo in particolare Emanuele e tutti coloro, e tutte coloro sono private della loro libertà personale. Oggi Fede, un bellissimo film, una bellissima colonna sonora, io sono felicissima. Bene. Sì. Un film di Jim Jarmusch. È già il secondo che facciamo a Tracce di Cinema. Forse neanche smetteremo. Eh sì, no, perché è un regista che ci piace, insomma, i suoi film sono sempre connessi e perfettamente in armonia con i suoni che poi vengono eseguiti al loro interno. E beh, già vorrei proprio iniziare parlando proprio del cinema di Jim Jarmusch, un cinema che per me è un cinema molto popolare, non nel senso dispregiativo che questo aggettivo simboleggia per tante persone un po' sciocche, ma bensì nel senso più bello che questo aggettivo ha, cioè un cinema che arriva a tutti e che anche per questo piace, anche se difficile, occulto, piace sempre, quasi sempre, perché ha un linguaggio che evoca attraverso le sue immagini che sono molto raffinate ciò che noi vogliamo sapere, sentire e vedere. Secondo me questo film, il film di oggi, non ha queste caratteristiche, però è un film popolare, sì, ma è più criptico, più enigmatico, e per questo film non è un film per tutti, non è per le persone che vanno di fretta innanzitutto e non è per le persone più superficiali, non è neanche per quelli che si aspettano un horror, perché non è un film di genere, assolutamente non riguarda quel genere lì, ma è un film stupendo, va lentissimo e secondo me non va visto neanche al cinema, ma proprio a casa sul divano con una bella bottiglia di vino e altre cose anche volendo, e vicino a chi amiamo, a chi ci va genio, languidi, proprio appassionati, abbandonati alle sue immagini e ai suoi suoni. Questo intellettuale sofisticatissimo e molto sensibile è anche un musicista, scrittore, naturalmente regista, non si risparmia mai nei suoi lavori, utilizza ad ogni film tutte le sue conoscenze e lo fa con un'umiltà e con una serenità che proprio disarma, un po' come quando quello che succede a me personalmente, quando si ascolta qualcuno che non se la tira, no? Perché anche se è un genio, no? Non se la tira perché sa che anche se sta di essere un genio e con le sue parole proprio non si sente in superiorità verso chi lo sta ascoltando, e parla con naturalezza, condivide se stesso e ciò che sa senza degli artifici e senza vigliacche egoiste, voglia di far vedere chi è, cosa sa fare per assicurarsi tra le persone che lo stanno ascoltando magari più interesse o qualche, insomma, un posto di superiorità. Non è così Jarmusch. Jim Jarmusch è un regista raffinatissimo, ma allo stesso tempo semplicissimo, che arriva sempre in tutti i suoi film. È sempre questo quello che succede quando guardiamo un suo film, perché questo regista non è artificiale, anche se può artificioso, se può sembrare, e non è artificioso neanche questo film, che è stato molto criticato. Il film di cui sto parlando è Only Lovers Left Alive, solo gli amanti sopravvivono, ed è secondo me il film più musicale di Jim Jarmusch. Secondo me è proprio bellissima la colonna sonora, poi magari vi diciamo un pochino di più, e intanto io direi di partire, Fede. Cominciamo. حاسبني مهزوم ليك ولحبك الورد جميل لحبك مش جميل الجو خليل لهواك مش خليل كلامي معك حاجب وحسب الدخيل حاسبني مهزوم ليك والخطاك دايما عيد دايما جمع ومعطوق فيك مهسوسة وهتفة ليك طبع استفساك الورد الجميل يحبك دايماً زعلان دايماً معجوقة فيك معجوقة في حبي نسيني وانا وياك حتى في كلامي معك حابب تغلبني فيك حاسبني مهزومة ليك والحب وصفت منه من عنوان وناهي الحوار قلت له بطل بطل مش راد تعلي علي قال لي سميت مش ساكت انا بحرك انا مش فاكك ادي شمال وديما ادي شمال وديما ادي شمال وديما ادي شمال وديما ابتلك ينهو تردلي كده هو استلمى كده هو تشبكني كده هو حشلف لي كده هو كده كده هو انا انا انا انا مش فاضي Yas Gamil. Sì, sono Mirwais Hamadazai alle tastiere, alla chitarra e Yasmin Hamdan alla voce, bellissima. Sono un progetto di musica araba e ce n'è tanta di musica araba in questo film che le cui location sono Detroit e Tangeri e quindi ci sta proprio perfettamente il sound della colonna sonora è molto medio orientale però con delle influenze rock. L'autore della colonna sonora è un pazzo è un olandese completamente pazzo, adesso vi spiego perché. Si chiama Joseph Van Wissem, è un musicista, un compositore e liutista e ha scritto centinaia di tablature classiche del liuto come fossero delle immagini specchiate, cioè all'incontrario le ha copiate a partire dall'angolo in basso e poi andando da destra verso sinistra e a queste partiture ha applicato poi il taglio preso in prestito dallo scrittore William Borrow e quindi ha tagliato, cambiato posto, mischiato, amalgamato le diverse parti insieme per creare dei lavori molto insomma raffinati e ha un approccio decisamente inusuale rispetto alla musica e all'aiuto del Rinascimento e aiuto barocco, strumenti meno usati in assoluto nel mondo della musica contemporanea. E infatti lui con questo metodo, in poche parole, copia e incolla brani classici, inverte le melodie e poi registra tutto quanto. La rivista The Wire ha definito il suo album solista Stations of the Cross un piccolo capolavoro e il suo album, se volete ascoltarlo, il suo album solista più recente è It Is All That Is Made, pubblicato con la Important Record nel 2009. Senti, ci sono poi come seconda traccia due opzioni, le decidiamo in diretta, che dici? Sì, qual è la seconda traccia? La seconda traccia è Denise LaSalle, Trapped by a Thing Called Love. La prima che mi segni scena del film Only Lovers Left Alive Dance Scene. Eh sì, beh, c'è una bella differenza tra le due tracce, perché una è l'originale di Denise, yes, La Sala, ed è bellissima ed è forse quella più conosciuta. Invece la prima che ho scelto io è proprio tratta da una scena del film e è suonata dal gruppo musicale di Jarmusch di Skull, non so se questa è la pronuncia giusta, e da una vocalist straordinaria che si chiama Madeleine, adesso mi sfugge, vabbè, insomma, ci una vocalist, sì, ma magari ve lo dico dopo. Quindi insomma, non lo so, Fede, decidi tu. La prima, se fa riferimento strettamente al film, c'è una scena, sì, di danza, facciamo, sì, quella, sì, sì, ok. Poi ci sono tanti brani anche degli Skull che però magari abbiamo deciso insomma di tralasciare perché sono molto strumentali e sì, sì, abbiamo pensato di dare un po' più ritmo. LaSalle, Trapped by a Thing Called Love, di diverso, di differente, ci sono solo i dialoghi e il tempo che passa prima che la puntina vada sulla traccia e cominci. Quindi disco. È l'originale anche quello. Perché... Sì, sì, sì, ho fatto un po' di confusione perché invece parlavo di un altro brano della colonna sonora che è Funnel of Love di Wanda Jackson. Vabbè, capita quando uno va un po' di fretta. Senti, LaSalle, che diciamo di questo brano? Intanto le parole sono bellissime. Somebody tell me what has this man got, he makes me feel what I don't want to feel, e poi continua, stupende. E beh, lei è una grande, classe 1939, ha sviluppato un veramente articolato lavoro, insomma, non solo dal proprio quello classico, melodico, si è poi destreggiata tra soul, blues, country. È una cantante molto femminile e al contrario di quello che può sembrare, secondo me è anche un po' così, un po' una filosofa dell'ironia, perché insomma canta sempre senza prendersi troppo sul serio ed è una, secondo me, una anche un'autrice molto talentuosa da quello che ho letto di lei. Bene, continuiamo? E direi di sì. Down, down, down, I'll find this place. Skrull, questo non so come sia la pronuncia, però insieme in questo caso a Madeleine Follin per Funnel of Love, l'originale è di Wanda Jackson, che guarda un po', che, mi ero messo sul cellulare, che preferivo, è una versione totalmente diversa. Certo, questa è molto scura, molto gotica, quella era molto vitale. Sì, una canzone degli anni 60, 1960. Yes. Sì. E invece quello che insomma racconta questo film è una storia d'amore, ma è piena di suggestioni, è piena di piccole poesie che devono essere scoperte da chi ha il piacere di guardare questa pellicola. Uno di questi leggerissimi messaggi che dà Jarmusch all'interno del film, secondo me, è proprio che solo chi ama rimane vivo, cioè chi rispetta il mondo, la sua arte, la letteratura, il progresso della scienza, il suono dei nomi, le persone, tutti gli altri sono esseri pericolosissimi, di cui temere da combattere, ecco, in qualche modo, e da cui sfuggire anche qualche volta, da ignorare. Questi due personaggi sono vampiri, non viene mai usata la parola vampiro in tutto il film, e sono molto particolari, uno più edonista e l'altro più malinconico, perché per i vampiri una costante è la noia, perché vivono da millenni, ed è forse la nemica più grande del protagonista, che pensa al suicidio, tiene, infatti si fa fare un proiettile di legno pronto per, insomma, è quasi pronto per usarlo, quando poi viene salvato dalla sua Eve, perché nella tradizione non è d'argento, non deve essere d'argento, nel film è di legno, è vero. E perché insomma sente questa maledizione dell'eternità molto molto forte, perché poi insomma prima o poi ci si stufa delle cose, la morte diventa solo una prospettiva da cui vedere il mondo. We'll be right back. con Little Village dal vivo, questa versione, sì, Ottavia. Artista super prolifico, 1955, l'anno della sua data di nascita, ha usato durante la sua carriera un sacco di pseudonimi e ha iniziato a fare musica, insomma non è che ha iniziato proprio di essere conosciuto nel 1980 con David Allen, e con cui ha creato un gruppo in New York, Gong, e poi ha fondato un altro gruppo, un trio di rock sperimentale, Material. Nell'82 entra a far parte dei Golden Palominos e nel 99 ha fondato con Zakir Hussain i Tabla Beat Science, e come produttore ha curato dischi dei Ramones, di Iggy Pop, ha collaborato con Brian Eno, Manu Dibango, e ha curato anche tracce per tante colonne sonore, anche per il film Nirvana. Pensa. E questo ci porta all'ospite di questa settimana, che è Aldo Spiniello di Sentieri Selvaggi Magazine. Aldo, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da ospite di Visionari sei passato a Tracce di Cinema per parlare, non so poi cosa hai scelto tra la regia, il film, la colonna sonora, che sono i nostri... parleremo del film. Benissimo. Di Jarmusch in generale. Allora, intanto cominciamo da questo film, Aldo. Cosa ne hai pensato di questo film? Solo gli amanti sopravvivono. Io lo vidi a Cannes la prima volta, nel 2013. Era in concorso a Cannes, sì, mi ricordo. Una visione notturna, tra l'altro, erano le 10:30 di sera, quindi era perfetto come visione vampiresca. Esatto. Sì, è un film particolare, diciamo, che però poi si inserisce pienamente in quello che è il cinema di Jarmusch, appunto la storia di questi due vampiri che attraversano i secoli amandosi ma amandosi stancamente. Quindi il sentimento principale del film è questa stanchezza, sì, questa idea di una ripetizione spasmodica delle cose. Del resto non so se voi ci avete presente, non so se vi ricordate, il film inizia proprio con questo vinile che gira, la macchina che gira in fondo, sì, come se appunto il tempo fosse una spirale circolare dal quale non si riesce mai a uscire, che non ha mai traiettorie, fughi in avanti e indietro. E loro attraversano appunto questi secoli, si amano, però sono lontani l'uno dall'altro, no? Tom Hiddleston, protagonista, vive a Detroit, che diciamo ha una valenza musicale questa scelta, la città della Motown, ovviamente. Però è anche qui, come dire, la Detroit di oggi non è la Detroit di 40-50 anni fa. Oggi è una città che ha perso gran parte dei suoi abitanti, una città desolata, quasi in via di smantellamento. Sì, credo un terzo degli abitanti abbia allo stato attuale. Sì. E nel film questa cosa si avverte, si vince, sembra davvero una città di zombie, di fantasmi, una città decadente, come dire, di archeologia industriale, di un tempo che è finito. Lei invece vive dall'altra parte del mondo, vive a Tangeri, quindi un luogo di confine, ma anche un luogo, insomma, in cui appunto il tempo sembra sospeso, non si capisce se si vive nella contemporaneità oppure in un passato, una una vita antica, insomma, col suo fascino, i suoi misteri, ma anche qui con la sua stanchezza. E questi personaggi, insomma, si ricongiungono, incontrano vari altri personaggi, questo fantastico personaggio interpretato da John Hurt, che insomma dovrebbe essere il poeta Marlowe, che ce l'ha con Shakespeare e via dicendo. C'è questa ragazzina interpretata da Mia Wasikowska. Tra l'altro interessante, i tre attori protagonisti, John Hurt, Hiddleston e Tilda Swinton, sono inglesi. E loro a un certo punto del film dicono: bisogna stare lontani da Londra, come se Londra fosse la pietra tombale della loro vita vampiresca. Mentre la Wasikowska, che sarebbe, come dire, lo slancio vitale, la persona più, come dire, energica, frizzante del gruppo, è australiana, che qui sembra. Vabbè, e Jarmusch come al solito gioca con le sue infinite citazioni musicali, ma non solo, letterarie, tira in ballo Joyce, Lizzie Buchanan, quindi del grande Gatsby, appunto Marlowe, Shakespeare, e poi la musica, ma soprattutto una delle idee più interessanti del film, appunto, è proprio in linea di questa, come dire, luogo della memoria, luogo archeologico. Lui utilizza YouTube nel film come se fosse una sorta di land of lost, della contemporaneità, cioè un luogo in cui appunto si depositano tutte le nostre memorie presenti. E tutto il suo cinema, in un certo senso, un cinema che sembra un deposito di memorie, in cui le cose si, come dire, si affastellano e formano strati su strati. Sì. E che danno in un certo senso poi tutto lo spessore concettuale di quella che è la sua filmografia. Sì. Tra l'altro, tornando a Detroit e tutta l'ambientazione, anche la musica fa riferimento ai decenni 50 e 60, quindi anche quella è un salto all'indietro. Sì, che poi è accompagnata poi dalle tracce scritte apposta per il film, che sì, poi sono quelle di Van Bissem e dello stesso gruppo di Jarmusch, sì, no? Gli Cure, che fa riferimento alla musica degli anni 50, ma poi tira in ballo, come dire, anche la musica più commerciale degli anni 70-80, a un certo punto c'è Sol Dracula, no? E loro vedono un video appunto su YouTube. Sì, giocare sempre tra l'alto e il basso, non dire tra la cultura elevata, appunto Shakespeare, la cultura popolare. Sì. Per Jarmusch non c'è alcuna differenza in questo. Però ecco, come poi nell'ultimo film, Patterson, anche quello posso dire, che in Italia ancora non è uscito, ma dovrebbe uscire nei prossimi mesi, è proprio questa idea del tempo, di questa spirale, di questo tempo che non si muove mai, in cui noi ripetiamo sempre le stesse azioni, sempre gli stessi movimenti, e però all'interno di quella ripetizione Jarmusch è capace di cogliere degli istanti improvvisi di bellezza e di poesia che in un certo senso ridanno tempo, che, scusate il gioco di parole, ridanno senso a tutto e rimettono in asse le cose. Ecco. Oh, tornando invece a un discorso più in generale sulla sua filmografia, stavo dando una ricontrollata e da prima, rispetto alla produzione precedente a Solo gli amanti sopravvivono, io ho perso solo The Limits of Control del 2009, per il resto è un film abbastanza invisibile, non se ne è avuta grossa notizia, insomma. Io l'avevo conosciuto proprio dal suo primo, devo dire, per quanto mi riguarda, poi visti all'epoca e poi non so rivedendoli oggi che effetto mi fanno, però insomma sono tre i suoi lavori che considero dei capolavori, e sono Stranger Than Paradise, Dead Man e Ghost Dog. Ghost Dog, tra l'altro, lo abbiamo già affrontato qui a Tracce di Cinema per la sua colonna sonora, mentre un gradino un po' più sotto a questa trilogia, per come la vedo io, ci piazzerei Broken Flowers e Solo gli amanti sopravvivono, per l'appunto. Non so tu come la vedi in proposito. Guarda, non lo so, a me sopra solo gli avanti sopravvivono mi piace moltissimo, sì. Così come è piaciuto moltissimo anche l'ultimo Patterson, che mi sembra veramente definitivo rispetto al suo discorso, anche se è un film apparentemente minuscolo rispetto magari a Ghost Dog, in cui poi c'è la fascinazione anche dell'aspetto action, sì. Se vogliamo. Sì. Quindi questa scelta del samurai che va a combattere, Jarmusch tra l'altro, che va sottolineato, è un grande amante di cinema, ma in generale della cultura giapponese. Sì. Infatti nell'ultimo film sarà proprio un giapponese quello che in un certo senso tirerà la morale, la conclusione. Ma guarda, io se dovessi lasciare le premesse, no, sì, sicuramente Stranger Than Paradise e Permanent Vacation, andiamo alle origini. Ma le origini New Wave proprio. Sì, ma solo gli amanti sopravvivono, io metterei proprio. L'hai molto amato, Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Anche a Dead Man, ovviamente. Senti, che tu sappia, Patterson uscirà in Italia? Sì, credo, mi sembra di aver letto la confusione generale della mia e quella della mia mente. No, credo che sia stato acquistato e quindi dovrebbe uscire. Quindi dovrebbe uscire. È stato acquistato e uscire. Tra l'altro in contemporanea lui ha girato questo documentario sui hip hop e gli Stooges, Jimmy Dance. Jimmy Dance. Sì. A Cannes ha presentato entrambi. Senti Aldo, in chiusura non so se ci sono film o un titolo in particolare che tu hai amato per la sua colonna sonora e che ti piacerebbe magari avere ospite e sentire via radio da Tracce di Cinema. Ma guarda, più che per la colonna sonora in sé, per sé le musiche, ma proprio per l'atmosfera, poi collegandola anche alla musica di quel periodo, è una questione di affetto personale, io penso sempre a un Mercoledì da Leoni. Vedi, noi annotiamo. Quindi questa California degli anni 60. Bene. Ok, allora prendiamo nota. Aldo, io ti ringrazio, un abbraccio e speriamo di risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Ciao. Charlie Feathers con Can't Hardly Stand It. Stavamo parlando della filmografia in generale di, io prima ho citato quei tre titoli, ma secondo me soprattutto c'è Deadman, secondo me è il suo capolavoro. Beh, io li ho amati veramente tutti, insomma, i lavori di Jarmusch, non saprei proprio quale scegliere. E invece, a proposito di questo cantante che abbiamo appena ascoltato, è Charlie Feathers. Fede, nato nel 1932 in America, e è uno dei più grandi pionieri della musica rockabilly, mi pare che si senta anche, insomma, mi sembra ovvio, molto originale, con questo timbro vocale, con questo singhiozzo, insomma, che dà il ritmo un po' proprio alle sue canzoni, ed è stato, molte dei suoi brani sono apparsi nel cinema. Feathers Song, le canzoni di Feathers, scusate se leggo dall'inglese, That Set and Female, nella colonna sonora di Quentin Tarantino, Kill Bill, volume 1, 2003, Can't Hardly Stand It, in Kill Bill 2, e anche qui, sì, e insomma è stato uno degli artisti più, insomma, importanti in Europa, che, insomma, i collezionisti, gli amanti di questo genere considerano, ecco, geniale. Aspetta un attimo, sì, che mi è venuta in mente una cosa. Non ci dimentichiamo che comunque la colonna sonora di questo film ha vinto il premio per la migliore colonna sonora a Cannes. Ecco. No more fear, no more fear, I'm in love. Black Rebel Motorcycle Club, Red Eyes and Tears, dalla colonna sonora del film di Jim Jarmusch Solo gli amanti sopravvivono, cara Ottavia. Eh sì, questi sono un gruppo di rock americano californiano per due terzi, mentre il batterista, che poi è, insomma, è arrivato successivamente alla formazione del gruppo, Lee Shapiro, è danese, e ha, il loro nome viene proprio, è stato mutuato dal nome di una delle gang di motociclisti protagoniste di Il Selvaggio, capolavoro del 1953 interpretato da Marlon Brando, e sono stati scoperti da Noel Gallagher degli Oasis, ho letto su internet, che ha, insomma, fatto in modo che la loro prima demo diventasse molto famosa in Inghilterra. Poi è uscito il loro album omonimo nel 2001, che li ha confermati come una band, insomma, abbastanza capace. Il batterista, come vi dicevo, Nick Jago, che li ha accompagnati fino a un certo punto, è stato poi sostituito da Lee Shapiro nel 2010, e il gruppo ha pubblicato un album, Beat the Devil's Tattoo, che è stato, insomma, registrato all'interno di uno studio, in una casa, uno scantinato, pare in un inverno molto freddo. Era freddo quell'inverno. Ed era lo stesso scantinato dove poi era invece stato, aveva visto la nascita Howl, che era il loro primo album. Bean, che è, insomma, il leader di questo gruppo, ha dichiarato, a proposito di questa esperienza, una cosa che, insomma, di questa esperienza creativa, una cosa che mi ha colpito e la voglio riportare oggi e condividerla con voi. Qualcosa è successo a noi là fuori, però non sono sicuro se abbiamo battuto di nuovo i nostri demoni o se semplicemente abbiamo permesso che ci prendessero completamente, ma i giorni strani sono fatti per tempi strani. Kashbah Rockers, Harissa nella versione preview shortcut mix. Lo sai, questa potrei infilarla nella playlist del cellulare, ma me la voglio risentire bene. Nella mia playlist invece inserisco Yas. Ok. Yas. E invece dei Kashbah Rockers, sono nati dall'amore per la musica di un produttore musicista dal nome Pat Jabbar, di origini svizzere, francesi e russe, e dall'incontro tra questo musicista e Bill Lausel, che è un altro musicista innamorato e affascinato dalle sonorità del nordafricane. Le musiche dei Kashbah Rockers portano proprio in un viaggio lontano, secondo me, quando le si ascolta, perché si mischiano tanti generi, tante sonorità diverse, senza però sentire che ci sia alcun peso per rispetto alla musica nordafricana più tradizionale o a quella più occidentale, perché insomma mischiano tante cose. Noi abbiamo sentito solo questo pezzo, ma insomma c'è hip hop, reggae, tutto viene poi arricchito da un linguaggio sempre diverso. Ci sono pezzi rappati in francese, altri in arabo, insomma un gruppo abbastanza interessante. Pat Jabbar è anche proprietario di un'etichetta, la Baraka Label, e tutto qua. Tutto qua. Manco è poco, Vabbè, la sfumiamo. Joseph Van Wismem insieme agli Skrull. Eh sì, è il nostro lutista pazzo. The Taste of Blood, il titolo della traccia dalla colonna sonora del film di Jim Jarmusch Solo gli amanti sopravvivono, del 2013. Spendiamo due parole per la protagonista di questo film, Tilda Swinton. Eccola. Esordito nel 1986 con il film Caravaggio di Derek Jarman, e poi insomma ha lavorato tantissimo veramente. Per Derek Jarman a me era rimasta, mi aveva folgorato in Orlando. Sì, ma per Derek Jarman lei è stata praticamente una musa, e lui le ha affidato tutti i ruoli di tutti i suoi film, fino che insomma non ci ha lasciato. È stata appunto nel 92 protagonista di Orlando, The Beach nel 2001 vicino a Leonardo DiCaprio, Tom Cruise e Penelope Cruz, vicino a Tom Cruise e Penelope Cruz in Vanilla Sky nel 2002, Young Adam, che io ho amato tantissimo, con Ewan McGregor nel 2005, e poi ha lavorato anche con Luca Guadagnino per The Bigger Splash. Ha vinto un Oscar come migliore attrice non protagonista per il film Michael Clayton nel mi pare 2007, e poi insomma ha lavorato tantissimo, amatissima, un'attrice era super raffinata, però insomma anche molto impegnata. E mi ha fatto ridere una cosa che ho trovato su internet, Fede, senti, si è esibita nel 1995 in una performance intitolata The Maybe, ideata dall'artista Cornelia Parker, che si è svolta presso la Serpentine Gallery di Londra e il Museo Barracco di Roma. Me la so persa. Tilda Swinton giaceva per 8 ore al giorno all'interno di una teca di vetro apparentemente addormentata, quello che vorrei fare io per un po' di tempo. E bellissimo, beata lei. Magari è stata anche pagata benissimo, anzi sicuramente gli hanno dato un sacco di soldi. Beata lei. E poi è stata membro della giuria al Festival di Venezia nel 2004, nel 98, scusate, nel 2004, quello al Festival, membro della giuria del Festival di Cannes. Una volta uscita dalla teca di vetro. Sì. Nel 2009 è stata presidente della giuria al Festival di Berlino, ha fondato un festival cinematografico chiamato Ballerina Ballroom Cinema of Dream, e è stata anche protagonista del video del singolo di David Bowie The Stars, pubblicato nel 2013. Insomma, un'attrice veramente, un artista, no? Non solo un'attrice, veramente completa. A questa ci tenevi tanto, eccola qui. Ah sì, questa è proprio tratta è proprio tratta dal film, è una scena del film bellissima. الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعدي بقلب هسي يا قلبي الفرقة Yasmin Hamdan Hall dal film appunto solo gli amanti sopravvivono, e siamo in chiusura, Ottavia. Sì, sì, lei di nuovo ritorna, perché lei è anche con la canzone che abbiamo suonato all'inizio della trasmissione, ha collaborato appunto con Meir Weiss, è un'artista bellissima, sensibile, canta in diversi dialetti, in libanese, dialetto del Kuwait, palestinese, egiziano, beduino, ha vissuto in tutti questi paesi ed è un artista molto sensibile. Siamo arrivati alla fine, vi ricordo le coordinate per oggi, sto un po' così, sono un po' stanca. Il numero di conto corrente postale, mi hanno detto che ho fatto tanta confusione. No, sì, no, sì, sono cattivi. Sono stata confusa. E allora, te lo ricordi a memoria o lo dico io? No, ma figurati se me lo ricordo a memoria. Allora, 6180 4001 per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Lo potete fare anche in maniera digitale, telematica. Basta consultare il sito della radio, ondarossa.info. Sull'home page c'è Sostieni. Sostenete Radio Onda Rossa, perché questa radio è una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. E per continuare a vivere ha bisogno dei vostri contributi. Tracce di cinema@ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Chiudiamo con White Hills, Under Skin or By Name. Vi ricordo che il telefono della radio è fuori uso, quindi se volete contattare Radio Onda Rossa dovete fare un altro numero rispetto a quello consueto, 0644 69102.